Arte Fiera è e deve essere sempre più la vetrina mondiale dell'arte italiana, della migliore arte italiana, in confronto e in colloquio con la migliore arte internazionale. A parlare è Silvia Evangelisti, direttore artistico di Arte Fiera da 8 anni, che ha iniziato come espositrice al primo appuntamento della Mostra Mercato, che ora è giunta all'edizione numero 36. Lo spirito è lo stesso, ma si è arricchito di nuovi elementi. Se da una parte si combatte la crisi con criteri di selezione più rigidi legati alla riduzione di spazi e numero di partecipanti, dall'altra si punta alla qualità e a un collezionismo il più possibile a portata di tasca. E se non tutti investiranno nelle opere esposte nei padiglioni di Bologna Fiere, nessuno rimarrà deluso dagli eventi che la città offre. Ad esempio, le visite gratuite nei musei come il Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, il direttore Gianfranco Maraniello. Il museo apre con orari straordinari per consentire anche il godimento della città, arrivare quindi al museo insolito. Tutti i giorni siamo aperti fino a mezzanotte e la mattina i breakfast al Mambo sono ormai diventati degli appuntamenti tutt'altro che di elite, di grande piacere e condivisione di spazi e modi di fruizione. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 ore.